giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Uno Bianca, un mistero irrisolto. Ci sono storie dure, violente, che non appartengono soltanto alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina al contempo oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, i nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie e giurate. E ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauti, pensionati e studenti. Primi anni 90. La banda dell'Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupoli e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano neri e zingari, si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario, per il gusto di farlo, non per i soldi. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra Volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto. Fa il camionista e i lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhi Pinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi. Attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscevano molto bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Picello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, le porte di Bologna ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina centrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, entrambi 22 anni. Cataldo Stasi, 22 anni, da Rugo di Puglia, e Umberto Erriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti. Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91, 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio del 90 è il turno di Giancarlo Armorati. Il 6 ottobre del 90 viene colpito Primo Zecchi. Come ricorda la moglie, Rosanna Zecchi, ora presidente dell'associazione dei familiari delle vittime dei poliziotti della Uno Bianca. Noi eravamo a una gita con mia figlia, Tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e gli volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi gli hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutto tutta la rapina, tutta la sparatoria, e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a dire chiami 113, c'è una rapina in atto, la signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo, nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina, ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate per elevarlo e l'hanno ucciso. L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca al campo nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bedinati, entrambi a Roma. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il saldo di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini. Oltre 220 proiettili in pochi minuti. Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi. Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità e spaccio di droga. Mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri in normale servizio di pattuglia vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio, stavolta, viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange Armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Savi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo. Sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i sicuri vicoli intorno a Piazza Maggiore, a Bologna. Il fratello Mauro era una persona molto semplice. Si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questa... Di questo suo momento, e subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui, perché lui ha sempre ammirato quella città. Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà poi Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna. Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro. Sì. Ministri dei Casini e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevano rallentato davanti a noi, e allora è esploso dal finestrino del porto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura. Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini? No, negativo. Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è? Nessuna, per non essere fermati, tutto lì. Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore? No, l'avevo di fianco. Aveva? L'avevo di fianco. Può parlare a voce più alta? L'avevo al mio fianco. L'ho sentito adesso, grazie. Ma glielo ripeto ancora se vuole. No, mi basta. Ma ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica minaccia a tutti i cronisti che si occupano della banda da Uno Bianca. Si chiama Falange Armata. Quello che sentirete è il sonoro di una delle telefonate giunte all'utenza di un collega di Bologna. Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire, cioè le sue assurde convinzioni, non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica. La telefonata aggiunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono alcune domande. Chi uccide in questi anni in Emilia? Professionisti, terroristi, poliziotti, servizi segreti paralleli, servizi segreti ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali passanti, testimoni di cambi macchina. Un giovane sardo, ad esempio Massimiliano Valenti, viene ucciso perché riconosce i volti dei banditi come Fabio Savi. È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri per entrare a Bologna. Al momento che l'aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, l'avevamo visto scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io. Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili, le loro azioni fulmine, le vie di fuga sono collaudate, ma altri occhi osservano le loro gesta. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce quel gruppo. Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino allora era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze. Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Intanto due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno, vogliono portare avanti comunque l'inchiesta. Giallo e nero, tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Uno Bianca, un mistero irrisolto. Luciano Baglioni e Pietro Costanza nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date e gli orari delle rapine e degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra, conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, e comunque riescono sempre a fuggire, ad eludere i posti di blocco. Luciano Baglioni. Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché secondo noi, il nostro ragionamento era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno. Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, come sottolinea Pietro Costanza. La cosa strana era, come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari la donna delle pulizie. E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi. 5 poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli. Con le palette di servizio e i tesserini possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna, senza restare sospetto alcuno. Nel lavoro investigativo, serio, preciso e puntuale, porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction, uno bianca, giungiamo al punto centrale dell'inchiesta, le rapine alle banche. Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antibocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli. E tu quale hai scelto? Piazza Apostoli. Perché? Ho fatto testa o croce. È uscita testa. La svolta arriva la mattina del 3 novembre del 94. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile. Quindi, sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni. Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino qui nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio. Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti. Il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. Fratelli Savi vengono poi catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi li trattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo del 96, fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Savi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi. Io avevo la mia attività carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, e non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me. Intanto dopo il terrore restano ancora dubbi legittimi, ancora oggi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi, i loro complici, è rimasta senza dubbio oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria. Se lo chiede oggi Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della Uno Bianca. Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto: lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché, però dobbiamo, questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente, a mio parere, se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene.